Capitolo 10. Quando se ne furono andati tutti, seppi che quelle insinuazioni erano effettivamente girate quella sera, alla presenza della vittima. Rose affermò che non ci credeva né ci avrebbe mai creduto. Lo disse anche mia madre, sebbene non con la stessa incrollabile determinazione. Non faceva che ripensarci. Infatti, e ogni tanto anche nei giorni successivi, se ne usciva con frasi tipo «E chi l'avrebbe mai detto?» Oppure, lo dicevo io che era strana, vedi cosa succede alle donne che vogliono essere a ogni costo diverse dalle altre? Alla fine disse anche, eppure era troppo misteriosa, io lo sapevo che c'era sotto qualcosa, ma certo, che tristezza, che tristezza! Mamma, ma non hai appena detto di non crederci? Le disse Fergus. Non ci credo infatti, ma qualcosa di vero ci sarà. Di vero qui c'è solo la malignità e l'ipocrisia, dissi. E tutto solo perché qualcuno ha visto Lawrence salir su verso la villa un paio di volte? Ah, i pettegoli affermano che ci vada per corteggiarla e da lì hanno costruito quelle infernali maldicenze. Ebbene, Gilbert, ma qualcosa ci deve pure essere nel comportamento della signora che abbia alimentato queste maldicenze. Ti è sembrato di ravvisare qualcosa in particolare? No, ma ho sempre detto che in effetti aveva qualche cosa di strano. Quella sera decisi che sarei tornato a Whitefield Hall. Era passata più di una settimana dalla festa e avevo cercato di incontrarla ogni giorno durante le sue passeggiate quotidiane, senza mai riuscirci del resto. Evidentemente lo faceva apposta. E continuavo a pensare a una scusa per andarla a trovare, fin quando decisi che non potevo più sopportare quella separazione. Avrei capito che a quel punto ero ormai perduto. Trovai nella mia libreria un volume che pensavo le sarebbe interessato, ma che fino a quel momento non avevo osato prestarle, tanto era ridotto male, e mi avviai verso casa sua, preoccupato di come mi avrebbe ricevuto e come sarei riuscito a imbastire un pretesto tanto debole. Magari l'avrei incontrata già a passeggio, in giardino. In quel caso non sarebbe stato troppo difficile. Quel che temevo di più era presentarmi alla porta e dover essere introdotto da Rachel in modo formale e trovare la padrona di casa sorpresa e seccata. Dovetti abbandonare le mie speranze, poiché della signora non c'era ombra. In giardino incontrai invece Arthur con il suo cucciolo. Lo chiamai da fuori e lui mi voleva far entrare, ma gli feci presente che senza il permesso della mamma non potevo. Vado a chiamarla, mi disse. No, Arthur, lascia stare. Solo se non ha da fare, chiedile di uscire qui fuori un istante che vorrei parlarle. Si allontanò di corsa e subito dopo lo vidi tornare insieme alla madre. Era così grazioso, con i riccioli scuri agitati dal vento, le guance appena arrossate, luminoso e sorridente. Arthur, che tesoro, gli sono tanto grato per tutte le occasioni felici in cui ci siamo incontrati. E infatti grazie a lui che potevo sollevarmi dal peso della paura e di ogni formalità. Negli affari di cuore non c'è niente di meglio che la presenza di un bambino puro e allegro, desideroso di gettare un ponte per unire ciò che è diviso, di sciogliere il ghiaccio della distanza e abbattere il muro della riservatezza. Ebbene, signor Markham, ditemi, esclamò la giovane madre con un sorriso tranquillo. Volevo farvi vedere questo volume per prestarvelo, in caso lo troviate interessante. Non mi pento di essere venuto a trovarvi in una serata così bella per un motivo tanto futile. Digli se vuole entrare, mamma, disse Arthur. Volete entrare? Mi piacerebbe vedere com'è cambiato e cresciuto il giardino e come hanno germogliato le radici di vostra sorella grazie alle mie premure, mi disse, aprendomi. Così, passeggiando per il giardino, conversammo di fiori e alberi, del libro che le avevo portato e di molte altre cose. Era una serata tranquilla e altrettanto tranquilla era la mia compagna. Presi a mostrarmi più affettuoso di quanto non fossi mai stato prima e lei non mi respinse. Passammo accanto a una pianta di rose muschiate che le avevo portato a nome di mia sorella e lei ne colse un bocciolo chiedendomi di portarlo a Rose. Non posso tenerlo per me? No? Però eccone uno per voi. Lo accettai, prendendo in silenzio la sua mano e guardandola in viso. Lei mi lasciò fare per un momento. Vidi i suoi occhi illuminarsi e pensai di essere vicino al mio traguardo, quando poi di colpo si rabbuiò, come colpita da uno spiacevole ricordo. Il volto e le labbra impallidirono e si allontanò di qualche passo ritirando la mano. chiaramente turbata da un profondo conflitto interiore. Signor Markham, cominciò in tono pacato, sarò franca con voi. Non posso sopportare una simile situazione. Mi piace intrattenermi con voi più che con chiunque altro, ma se non vorrete accettare la mia sola amicizia, semplice, leale, materna o fraterna amicizia, dovrò chiedervi di andarvene via e non tornare più, giacché diventeremo estranei. Beh, desidero esservi amico allora o qualsiasi cosa preferiate, pur di continuare a incontrarvi, ma perché non posso essere niente di più? Restò a lungo in silenzio, pensierosa. Forse per via di una ventata promessa che avete fatto a qualcuno? Sì, può darsi. Magari prima o poi ne parlerò. Adesso andate però, e vi prego non mettetemi più nella dolorosa condizione di dover tornare su questo argomento. Gilbert, concluse con uno sguardo determinato e tenendomi la mano. Come suonava dolce il mio nome pronunciato dalle sue labbra. Ve lo prometto, le dissi, e voi mi perdonerete per questa audacia, a patto che non si ripeta. E mi permetterete di venirvi comunque a trovare? Ogni tanto, senza tuttavia abusare di questa concessione. Vi dimostrerò che sono di parola. Diversamente la nostra amicizia finirà. Questo è tutto. Chiamatemi sempre Gilbert. È di certo più fraterno e servirà a ricordarmi l'impegno che ho preso oggi con voi. Mi sorrise, invitandomi di nuovo ad andarmene. Ritenni che fosse opportuno assecondarla e quando lei rientrò in casa, io presi a ridiscendere la collina. Stavo camminando nel silenzio di quella serata umida quando sentii un rumore di zoccoli. Era già quasi buio, ma mi bastò un solo sguardo per capire chi era. Lawrence, che risaliva il sentiero con il suo pony grigio. Presi a correre e scavalcai con un balzo il muretto per raggiungerlo in fretta. Lui mi vide e d'istinto tirò le redini per tornarsene indietro, salvo cambiare subito dopo idea e proseguire. Mi salutò con un cenno e si fece di lato per passare. Io però afferrai la briglia del suo cavallo e gli dissi: Forza, Lawrence, è arrivato il momento di spiegarmi cos'è questo mistero. Voglio sapere dove stai andando e a far cosa. Ti dispiacerebbe lasciare la briglia? Stai facendo male al cavallo, mi rispose lui. Tu e il tuo cavallo. Ma quando sei diventato così rude, Markham? Mi metti in imbarazzo. Non te ne andrai senza avere risposto alle mie domande. Voglio sapere qual è il tuo gioco. A meno che tu non lasci la briglia, non risponderò proprio nessuna domanda, neppure se mi tieni qui fino a domani. Ebbene, replicai, lasciandola, ma continuando a ostacolargli il passaggio. Me lo domanderai un'altra volta e in maniera educata, disse facendosi avanti. Io però a quel punto ripresi subito l'animale che era meravigliato dai miei modi bruschi tanto quanto il suo padrone. Ora basta, Markham. Possibile che io non sia libero di andare a trovare la mia inquilina per ragioni di affari senza subire simili aggressioni? Ma quali affari? Adesso ti dico che cosa penso di te e del modo in cui ti stai comportando. Sarà meglio che tu lo faccia in un'altra occasione. Sta arrivando il reverendo. In effetti, dietro di me c'era il reverendo che se ne stava tornando verso casa sua. A quel punto lasciai andare Lawrence, che proseguì per la sua strada e salutò il signor Millward. Stavate litigando, Markham? Mi chiese il reverendo. Non ditemi che a causa della giovane vedova, disse scuotendo il capo. Permettete che vi dica una cosa, aggiunse avvicinandosi. Non ne vale la pena. E scosse nuovamente il capo. Signor Millward, esclamai in preda all'ira con un tono così irriverente da lasciare il reverendo senza parole davanti a tanta insolenza. Come osate rivolgervi a me in questa maniera? Senza scusarmi, mi voltai per tornarmene velocemente a casa sul sentiero scosceso, lasciandomi Millward alle spalle. Capitolo 11. Erano passate forse 3 settimane. La signora Graham e io eravamo amici, fratelli o quel che lei aveva deciso che dovessimo essere. Mi chiamava Gilbert, come le avevo chiesto, e io la chiamavo Helen, giacché avevo visto quel nome su uno dei libri che mi aveva prestato. Non avevo mai cercato di incontrarla più spesso di 2 volte alla settimana e quasi sempre fingendo che fosse per caso. Ero talmente attento da non offrirle mai occasione di lamentarsi. Tuttavia, non potevo fare a meno di notare come fosse a volte triste, o comunque scontenta della sua posizione, Non che io fossi contento della mia. Non era certo facile per me comportarmi da fratello senza sentirmi costantemente un bugiardo. E mi era chiaro, intuivo, come dicono i protagonisti di certi romanzi, di non esserle indifferente. E se da un lato cercavo di accontentarmi di quel che avevo, dall'altro continuavo a sperare in qualcosa di più. Naturalmente tenevo per me queste speranze. Dove vai, Gilbert? Mi domandò Rose, vedendomi uscire dopo il tè alla fine di una giornata di intenso lavoro in fattoria. A fare due passi, risposi. E ti sei pettinato, pulito il cappello e messo i guanti nuovi solo per fare due passi? Capita. Stai andando a Wildfell Hall, vero? Perché? Mi pareva. Non essere sciocca. Saranno almeno 6 settimane che non vado su. Dove vuoi arrivare? Sarebbe meglio che rallentassi i tuoi rapporti con la signora Graham. Perché? Credi forse anche tu alle voci che circolano su di lei? No, disse lei incerta, è che ho sentito talmente tante cose sul suo conto ultimamente, in parrocchia, dai Wilson, e anche mamma dice che se fosse una donna per bene non vivrebbe lassù da sola. Ti ricordi poi quella storia del nome falso sul quadro e come l'ha argomentata? Disse che c'era qualcuno a cui preferiva tener nascosto il luogo in cui viveva per timore di essere trovata. Poi è arrivata quella persona misteriosa e lei si è alzata di scatto per riceverla e liquidarla in modo che non la incontrassimo. E Arthur ci ha detto che era un amico della madre. Ebbene, Rose, me ne ricordo e fingerò di non aver sentito che hai tratto conclusioni tanto poco onorevoli. Se non la conoscessi tanto bene, probabilmente anche io, mettendo in fila le cose, giungerei a considerazioni simili, ma per fortuna la conosco e come. E non sarei degno di chiamarmi uomo se credessi anche a una sola delle cose terribili che sono state dette sul suo conto, a meno che non fosse lei stessa a dirlo. Potrei credere a quel che dicono su di lei tanto quanto potrei crederlo se lo dicessero di te, Rose. Gilbert! E allora? Pensi che presterei fede a simili illazioni su di te, anche se fossero fatte dai Wilson o dai Millward? Voglio sperare di no. E lo sai perché no? Perché ti conosco, come conosco lei. E invece non la conosci, non sai nulla del suo passato e fino a meno di un anno fa non sapevi neppure che esistesse. Che significa? Basta guardare qualcuno negli occhi a volte per conoscere la sua anima e misurarne altezza, larghezza e profondità nel giro di un'ora. Allo stesso modo, se quella persona non volesse, o se non avessi tu stesso la capacità di guardarla in quel modo, non ti basterebbe una vita per capire davvero la sua anima. E dunque stai andando da lei? Sì. E mamma cosa dirà? Non serve che lo venga a sapere. Lo saprà se la cosa continua. Ma non c'è nessuna cosa, Rose. La signora Graham e io siamo solo amici e non saremo mai altro, e questo nessuno può impedircelo. Ah, se solo tu sapessi le voci che girano, saresti più cauto, sia per il suo bene che per il tuo. Jane Wilson, ad esempio, ritiene che le tue visite a casa sua non siano che una prova ulteriore della sua natura depravata. Jane Wilson può andare al diavolo. Eliza Millward è molto infelice. Vorrei ben vedere. Insomma, io lascerei stare. Lasciar stare cosa? E come fanno a sapere che la vado a trovare poi? Oh, quelli vengono sempre a sapere tutto. Pazzesco. E usano la nostra frequentazione come materia per intessere i loro scandali contro di lei? Se non altro, però, questo dovrebbe dimostrare quanto siano false le altre voci che hanno messo in giro, se ancora ce ne fosse bisogno. Rose, devi contraddire queste maldicenze ogni volta che ti sarà possibile. Con me non ne parlano mai direttamente. Io le capisco dalle allusioni che fanno o da quello che dicono gli altri. E va bene, oggi non andrò, tanto ormai è tardi, ma che quelle malelingue vadano all'inferno, borbottai amaramente. In quell'istante entrò il reverendo. Presi come eravamo dal discorso, non ci eravamo neppure accorti che avesse bussato. Salutò allegramente Rose, che adorava, per poi rivolgersi in tono duro a me. Ah, ecco lo straniero, disse. Saranno almeno, vediamo, 6 settimane che non vi fate più vedere in casa mia? Esclamò battendo col bastone per terra. Dite? Dico, confermò annuendo senza togliermi di dosso quello sguardo di solenne rimprovero. Teneva il bastone tra le ginocchia e le mani poggiate sul pomello. Sono stato indaffarato, dissi sentendomi in dovere di giustificarmi. Ah, indaffarato, ripeté con tono ironico. Proprio così. Avrete saputo che c'è stata la mietitura e la raccolta del fieno. Proprio in quel momento Entrò mia madre e salutò festosamente il reverendo, offrendomi così una scappatoia. Si rammaricò che non fosse arrivato in tempo per il tè, ma aggiunse che poteva fargliene preparare subito una tazza se la gradiva. No, grazie, disse lui, mi trattengo per poco. Una tazza? Potrete pur prenderla, ci vorranno 5 minuti. Declinò quell'offerta con un gesto teatrale. Sapete cosa berrei volentieri, signora Markham? Un bicchiere della vostra ottima birra. Oh, ma certo, esclamò mia madre mentre suonava la campanella per chiedere che gli venisse servita. Passavo di qui e ho pensato di fermarmi a fare un saluto e prendermi un bicchiere di birra. Vengo ora da casa della signora Graham. Ah, sì? Il reverendo annuì con aria grave. Mi pareva doveroso. Dite sul serio? Come mai, signor Millward? Gli domandai. Mi guardò severo e rispose a mia madre ripetendo: Mi pareva doveroso, e colpì di nuovo a terra col bastone. Mia madre si era seduta davanti a lui per ascoltarlo meglio. Le ho detto, signora Graham, le voci che girano sono tremende. E lei mi ha risposto, quali voci? Fingendo di non sapere a cosa mi riferissi. Sono il vostro parroco e mi sento in dovere di dirvi cosa non approvo nella vostra condotta e cosa dicono gli altri sul vostro conto. E poi le ho detto tutto. Dunque, è questo che avete fatto? Esclamai io, saltando in piedi e battendo un pugno sul tavolo. Lui si limitò a guardarmi per tornare poi a rivolgersi a mia madre. Non è stato facile, signora Markham, ma le ho detto tutto. Come ha reagito lei? Malissimo, purtroppo, violentemente, rispose. È impallidita e ha fatto uno strano verso, inspirando aria tra i denti serrati. Non ha neppure cercato di giustificarsi, né di difendersi, e mi ha fatto capire, senza troppi giri di parole, che le mie premure pastorali erano innecessarie e inutili, alludendo anche al fatto che la mia stessa presenza non le era gradita. Alla fine quindi me ne sono andato, convincendomi che il suo sia un caso disperato, tanto che ho deciso di non lasciare che le mie figlie la frequentino. Faccia anche lei la stessa cosa con la sua, signora Markham. Quanto ai ragazzi, quanto a voi, disse infine guardandomi, quanto a me, cominciai in preda a una tale rabbia da sentirmi tremare tutto il corpo e senza riuscire quindi ad aggiungere altro. Poi presi il cappello e me ne andai sbattendo fortissimo la porta, facendo tremare la casa e strillare mia madre, ma donando un minimo di sollievo ai miei nervi. Di lì a poco mi ritrovai in cammino verso Wildfell Hall, sebbene ignorassi con quale obiettivo. Del resto avevo bisogno di muovermi e non avrei saputo trovare una destinazione più sensata di quella al momento. Volevo vederla, parlarle, ma non sapevo bene che cosa dirle né come farlo. Avevo in testa una gran confusione di emozioni e possibilità diverse. Capitolo 12. Arrivai in 20 minuti al cancello. Ero agitato e sudato e volevo ricompormi prima di bussare alla porta, quindi percorsi il vialetto d'ingresso camminando lentamente. Costeggiai la parte abitata della villa e vidi dalla finestra la signora che camminava su e giù nel salotto. Il mio arrivo sembrò agitarla ancora di più, come se temesse che fossi andato anche io lì per muoverle un'accusa di qualche tipo. Ero arrivato col desiderio di consolarla per quanto le aveva detto il reverendo e per le maldicenze sul suo conto che lui le aveva rivelato, ma ora che mi trovavo lì, in effetti, trovai più opportuno non essere io a tirar fuori l'argomento. Forse sono arrivato in un brutto momento, le dissi, ostentando allegria, ma non mi fermo a lungo. Quando capii che poteva star tranquilla, mi sorrise con aria stanca eppure gentile, se non riconoscente. Che tristezza, Helen, perché non avete ancora acceso il fuoco? Ma se è ancora estate? Noi abbiamo l'abitudine di accendere il nostro ogni occasione, e qui poi, in questa dimora così fredda e malinconica, ce ne sarebbe davvero bisogno. Beh, se foste arrivato un po' prima avrei potuto accenderlo per farvi contento, ma ormai è tardi. Voi avete detto che vi fermerete poco e Arthur è a dormire. Un fuoco è quel che ci vuole. Se suono la campanella lo farete accendere? Eppure non mi sembrate infreddolito, Gilbert, disse guardandomi e vedendo che ero chiaramente accaldato. No, infatti, però vorrei andarmene dopo essermi assicurato che siate a vostro agio. A mio agio? Rise come se la sola idea fosse assurda. Sto bene così, grazie. Io però ormai mi ero messo in testa di fare a modo mio e suonai la campanella. Sentimmo avvicinarsi Rachel alla sala. Adesso non restava che chiederle di accendere il fuoco. Ecco, Helen, Ancora mi brucia il modo in cui Rachel mi guardò quella sera mentre accendeva il fuoco. Sembrava volesse dirmi: "E tu che cosa vuoi? Cosa sei venuto a fare?" Anche la signora se ne accorse e ne parve imbarazzata. "Sarà meglio che non vi tratteniate troppo", disse quando fummo nuovamente soli. "No, infatti", le dissi con rabbia, sebbene non nutrissi risentimento nei confronti di nessuno, se non verso quella vecchia impicciona della sua domestica. "Ma prima di andarmene volevo parlarvi di una cosa." "Di che si tratta?" "Non sono pronto, non so neppure io cos'è né come dirvela", le risposi con sincerità. Cercai di cavarmela per un po' con discorsi senza senso, temevo che mi avrebbe chiesto di andarmene. Nel frattempo tornò Rachel ad attizzare il fuoco e a darmi un'altra occhiata severa. A quel punto, continuando a parlare, sistemai una sedia per lei di lato al camino e una per me, pur sapendo che avrebbe preferito che me ne andassi. Restammo in silenzio, ciascuno perso nei propri pensieri. Lei nella sua malinconia e io nella confusione di trovarmi finalmente seduto con lei da solo, dove sarei voluto rimanere a lungo senza nessuno che turbasse la nostra intimità, neppure il piccolo Arthur, che fino a quel momento non era praticamente mai mancato, e al tempo stesso chiedendomi come dar voce ai sentimenti che da tanto, troppo tempo si agitavano dentro di me e che non potevo più sopire. Mi domandavo se e quanto fosse opportuno dichiararmi in quel momento, chiedendole di ricambiarmi e permettermi di difenderla da quelle maldicenze. Ero convinto, da un lato, che non mi sarebbero mancati gli argomenti e che l'impeto mi avrebbe sostenuto. Dall'altro, però, non volevo perdere quel che ero riuscito faticosamente a costruire negli ultimi mesi per un colpo di testa, quando invece sarebbe stato molto meglio aspettare. Mi sentivo una partita a dadi col destino ed ero disposto a giocarmela. Avrei almeno tenuto che mi rivelasse il motivo di questa nostra distanza, come aveva in un certo senso promesso di fare prima o poi, di questo impedimento alla mia felicità, e ormai ne ero sicuro anche alla sua. Continuavo a rimuginare quando lei si ridestò e, dopo uno sguardo fuori dalla finestra, dove una bella luna piena e rossa si stagliava sopra gli alberi, mi disse: "Gilbert, è tardi. Mi rendo conto. Non sia mai dovessero i nostri vicini accorgersi che siete venuto qui stasera. Di sicuro troverebbero il modo di ritorcermi la cosa contro", commentò con un sorriso che il nostro parroco avrebbe definito selvaggio. "Lasciate che dicano quel che vogliono. Che importanza possono mai avere per noi le loro opinioni, fin tanto che siamo contenti di noi stessi e l'uno dell'altra? Ah, che vadano all'inferno con le loro maliziose fandonie!" A questo mio sfogo arrossì. "Quindi sapete cosa dicono di me? Ho sentito circolare menzogne e maldicenze. Solo uno sciocco potrebbe credere a tali stupidaggini. Ellen, non date il loro peso." Ebbene, non credevo di poter definire il signor Milward uno sciocco, eppure lui ci crede. E per quanta poca stima io abbia di loro, non è comunque piacevole sapere che si sono fatti di me l'idea di una disonesta, di una persona che vive secondo i comportamenti che più afferma di disapprovare. E non è piacevole che i propri valori vengano a tal punto storpiati, trasformandoti in una persona disonorevole. Sono d'accordo. Vi prego di volermi scusare se la mia disattenzione a certe formalità abbia potuto contribuire a mettervi nei guai in tal senso. Non solo vorrei che mi scusaste, ma che mi deste anche la possibilità di rimediare, di difendervi e lavare ogni onta cosicché la vostra reputazione sia salva, cosa per me più preziosa ancora della vita. Siete davvero così nobile da volervi unire a una donna di cui si pensa e si dice tanto male? A voler far coincidere i vostri desideri con le mie necessità? Dovete pensarci bene, questa è una cosa seria. Ne sarei fiero, Helen, contento e felice più che mai, e se l'ostacolo che ci separa è davvero solo questo, allora voi sarete mia. Mi alzai e le presi una mano, che avrei portato alle labbra se lei non l'avesse subito ritratta dicendo: "Non si tratta solo di questo. Allora ditemi, mi avevate promesso di rivelarmelo prima o poi." "Lo saprete, ma non ora. Ho un gran mal di testa ed è stata una giornata intensa", disse toccandosi la fronte. "Ho bisogno di riposare", aggiunse sconvolta. "Eppure non sarebbe un male parlarmene. In questo modo io saprei come confortarvi." Scosse la testa, mesta. "Se ve lo dicessi, anche voi mi biasimereste. E magari più di quanto merito, sebbene io sappia di avervi danneggiato." "Un torto?" Voi a me? Impossibile. Non l'ho fatto apposta, ancora non sapevo quanto sinceramente e profondamente foste attaccato a me. Ho creduto, o meglio, ho voluto credere, che il vostro sentimento fosse fraterno, come dichiaravate, cioè come il vostro per me, come quello che avrebbe dovuto essere, almeno. Sì, mi avete danneggiato. Ora lo so, e l'ho pensato di tanto in tanto, anche in passato, ma in fondo, mi dicevo, non ci sarebbe stato niente di male a lasciarvi sognare un po', in attesa che le vostre ali battessero infine verso qualcuno di più adatto, mentre la vostra amicizia sarebbe rimasta con me. Se avessi capito la natura dei sentimenti profondi e disinteressati che sembrate nutrire. Helen, che sembro? Che nutrite sul serio? Ebbene, avrei avuto un comportamento diverso. Non vedo come avreste potuto essere meno incoraggiante né più severa. E se ritenete di avermi danneggiato solo per avermi offerto il piacere della vostra amicizia o della vostra compagnia, lasciandomi sempre bene intendere che quelli e solo quelli sarebbero stati i nostri confini, ebbene, siete in errore. La mia anima è lieta e purificata grazie a queste vostre concessioni. Preferisco di gran lunga la vostra amicizia all'amore di qualsiasi altra donna. Si strinse un ginocchio e guardò in alto come in una preghiera silenziosa e carica di turbamento. Poi mi guardò e disse: Se domani vorrete raggiungermi nella brughiera per mezzodì, allora vi rivelerò quanto chiedete e capirete anche voi che è necessario porre fine alla nostra intimità. Sono sicuro che non mi state nascondendo niente di veramente grave e che state solo mettendo alla prova la mia fiducia. Niente affatto, rispose lei con ardore. Per fortuna non ho crimini che pesano sul cuore, ma ho da confessarvi più di quanto vorreste sapere, più di quanto potrete forse perdonarmi e di certo più di quanto io possa dirvi ora. Quindi vi prego, lasciatemi. D'accordo, vado, ma prima rispondete a una domanda. Voi mi amate? Io non posso rispondervi. Significa che la risposta è sì. Vi auguro una buona notte. Si voltò dall'altra parte per nascondermi l'emozione, ma io la raggiunsi e le baciai con ardore la mano. Gilbert, andate via, disse con una tale angoscia da convincermi ad assecondarla subito. Prima di andarmene mi voltai e la vidi singhiozzare con le mani sugli occhi. Uscii, convinto che se fossi andato a consolarla non avrei fatto altro che peggiorare la situazione. Le paure, le speranze, le ipotesi e le forti emozioni che mi governavano mentre ridiscendevo la collina basterebbero a riempire un intero volume. Mi sentivo talmente legato alla donna che avevo appena lasciato da domandarmi perché mai sto tornandomene a casa tanto velocemente. Vi troverò forse anche uno solo tra questi sentimenti, tra consolazione, pace, conforto e sicurezza? Posso davvero lasciarmi alle spalle ogni sofferenza, ogni turbamento? E così pensando mi girai a guardare la villa e tornai ad avvicinarmi per osservarla meglio. Già all'orizzonte si vedevano i camini. Qualcosa mi incitava ad avvicinarmi sempre di più. Infatti la sola vista di quella dimora alla luce della luna che splendeva in alto in un cielo terso, gialla e calda in quella sera d'agosto, mi avrebbe dato beneficio, ne ero certo, più di qualsiasi altra cosa potessi trovare a casa mia. Lì avrei trovato allegria, luce e vivacità, assolutamente distanti dal mio stato d'animo in quel momento, e soprattutto al pensiero che la maggior parte di chi l'abitava era convinto della fondatezza di quelle orribili maldicenze, al cui solo pensiero sentivo il sangue ribollirmi nelle vene. Avrei sopportato di sentirne parlare apertamente, o di accorgermi di come venissero di tanto in tanto sussurrate? Avrei dovuto fare i conti con una vocina che già conoscevo bene e che mi avrebbe ripetuto, e se fosse vero, cui avrei dovuto rispondere un sonoro no che non lo è, e tu non mi indurrai a crederci. Arrivato davanti al giardino, vidi il bagliore rosso del fuoco risplendere nella sala. Mi appoggiai al muretto e guardai le finestre da lontano. Cosa stava facendo in quel momento? Cosa la turbava? Quanto avrei voluto dirle ancora qualcosa, o almeno vederla di sfuggita prima di andarmene. Non indugiai a lungo in quelle meditazioni, prima di saltare il muretto e avvicinarmi alla casa, incapace di oppormi alla tentazione di spiare dalla finestra per vedere se si fosse un poco ripresa. Se l'avessi trovata ancora disperata, mi dissi, avrei cercato le parole giuste per consolarla, magari qualcosa che avrei potuto dirle anche poco prima, senza aggravarla ulteriormente con la mia sconsiderata impulsività. Guardai dentro, ma la sedia era vuota, e la stanza anche. Subito dopo sentii aprirsi la porta e una voce, la sua, che diceva: «Usciamo, l'aria fresca della sera mi farà bene». Evidentemente stava uscendo a passeggiare con Rachel in giardino. Avrei preferito trovarmi oltre il muro. Me ne restai fermo nell'ombra, protetto dalla siepe di agrifoglio tra la finestra e la veranda, attraverso cui vidi avanzare due figure illuminate dalla luna. C'era la signora Graham e dietro di lei qualcun altro, che non era Rachel. Sembrava un uomo, giovane, magro e abbastanza alto. Sentii il sangue al cervello. Tale era l'angoscia che non riuscivo neppure a vedere distintamente. Mi sembrava proprio, e infine la voce me lo confermò, che si trattasse di Lawrence. «Non agitarti, Helen», le stava dicendo. «In futuro farò più attenzione. È ancora presto». Non riuscii a sentire il resto della frase perché le parlava da vicino e a voce bassa. Ero fuori di me per la rabbia e restai in ascolto sperando di cogliere qualcosa della sua risposta, che in effetti mi arrivò chiaramente. «Eppure devo andarmene, Frederick. Non potrò mai essere felice qui, come del resto da nessun'altra parte», disse con una risata priva di gioia. «Qui non ho più tregua. E dove pensi di trovare un altro posto, altrettanto perfetto, così isolato e vicino a me, ammesso che abbia importanza? Infatti, ma non mi danno pace. Ovunque andrai avrai gli stessi ostacoli, e inoltre non posso pensare di perderti. Dovrò seguirti allora o venire a trovarti, e i ficcanaso sono dappertutto». Così dicendo, mi passarono accanto e proseguirono. Dunque non riuscii a sentire cos'altro si dicevano, ma vidi che lui le metteva un braccio attorno alla vita e lei una mano sulla spalla. Avevo la vista appannata. Sentii cedermi il cuore e bruciarmi la testa. Mi allontanai di corsa, barcollando da quel luogo dove l'orrore mi aveva paralizzato, e scavalcai il muretto, o lo saltai, non ricordo, per poi buttarmi a terra come un bambino in preda a una crisi di rabbia. Non so quanto tempo rimasi lì così, ma di certo abbastanza, finché dopo aver pianto tanto, guardai la luna, indifferente al mio dolore quanto io ero indifferente al suo pacifico splendore. Chiesi al cielo la morte o l'oblio e lasciai che i piedi mi riportassero a casa, a memoria. Trovai la porta chiusa. Era rimasta sveglia solo mia madre, che venne ad aprirmi quando mi sentii bussare e mi riempì subito di domande e di rimproveri. «Gilbert, santo cielo, ma come ti è venuto in mente? Dove sei finito? Forza, vieni a mangiare qualcosa. È pronto, ma mi hai fatto preoccupare così tanto che non lo meriteresti nemmeno. Per non parlare del modo in cui te ne sei andato, lasciando il signor Milward piuttosto. Ma povero ragazzo mio, hai l'aria distrutta. Cosa ti è successo?» «Niente, dammi una candela». «Non mangi?» «No, voglio andarmene a letto», risposi afferrando la candela e cercando di accenderla con la sua. «Ma tu tremi, Gilbert», disse angosciata. «Sei pallido, dimmi cosa ti succede. È capitato qualcosa?» «Niente», le risposi battendo il piede a terra perché non riuscivo ad accendere la mia candela. Celai la rabbia e le dissi: «Ho tenuto un passo troppo veloce, nient'altro, buonanotte». E me ne andai senza rispondere al suo: «Troppo veloce? E per andare dove?» Mia madre mi seguì fino alla porta della camera coprendomi di domande e premure finché la pregai di lasciarmi da solo e non disturbarmi fino al giorno dopo. Se ne andò e alla fine sentii che chiudeva la porta della sua stanza. Io ovviamente non avevo affatto sonno quella sera e invece di provare a conciliarlo presi a camminare su e giù senza gli stivali per evitare che mia madre mi sentisse. Il pavimento di legno però scricchiolava e nel giro di mezz'ora era di nuovo fuori dalla mia porta. «Gilbert, perché non ti metti a dormire? Avevi detto di voler dormire!» «Che diamine, ora ci vado!» «Ma tu ci stai mettendo troppo, sono sicura che hai qualche preoccupazione.» «Per favore, lasciami stare e vai a dormire anche tu. È la signora Graham a farti questo effetto? Ti ho detto che non ho niente.» «Magari fosse vero», disse lei mentre tornava in camera sua. Io nel frattempo mi buttai sul letto covando rancore nei suoi confronti per avermi privato del mio unico sfogo e avermi costretto a letto. Fu la notte più lunga e triste della mia vita. Ma non restai sveglio tutto il tempo. I pensieri confusi e turbolenti si trasformarono in sogni deliranti alle prime luci dell'alba e in seguito in un breve intervallo di sonno incosciente, da cui mi risvegliai alla mia nuova vita, non vuota, ma peggio, piena di angoscia e amarezza. Non un deserto, ma piuttosto un giardino di rovi e spine. Mi risvegliai tradito, imbrogliato, scoraggiato. Il mio angelo non era più un angelo e il mio amico non era che un diavolo. Avrei preferito non dormire affatto. Era una mattina coperta, era cambiato il tempo, insieme con il mio orizzonte, e la pioggia colpiva la finestra. Ad ogni modo mi alzai e uscii, in parte con la scusa della fattoria, ma in realtà più che altro per ricompormi e rinfrescarmi le idee, prima di ritrovarmi a tavola con il resto della famiglia ed evitare di suscitare domande e commenti inopportuni. Se avessi preso un po' d'acqua, poi avrei avuto un'ulteriore scusa, oltre a quella di essermi troppo affaticato di prima mattina, per giustificare il mio scarso appetito. Prendendomi un raffreddore, avrei mascherato meglio il cattivo umore e la malinconia, che a lungo avrebbe avvilito l'espressione del mio viso.